Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:18 minuti, forza Debosciati d'Italia! Come dico sempre io amichevolmente, con grande affetto vi faccio una carezza, mentre vi dico Debosciati, piccoli Debosciati, dai, forza, andate a produrre, andate a lavorare, attivatevi, insomma. E vi ricordo che noi parleremo di quello che è successo in Europa, l'attacco a Napolitano da parte della Lega, Napolitano che dice no all'austerity, la questione della battaglia sul sì euro, no euro. Questa alle 8:15 avremo Flavio Tosi, sindaco di Verona e leghista, avremo il professor Borghi, commentatore anche del giornale, avremo Sandro Gozzi del PD, europeista convinto, a discutere insomma di quello che è successo ieri, ma anche non solo del dibattito, tra meno di 100 giorni, o meno, poco più di 100 giorni, ci sono le elezioni europee. Nessuno ne parla, ma insomma, se viviamo in questa Europa dobbiamo e dovremo pure anche fare i conti con questa cosa, no? Allora andiamo intanto a leggere i giornali. In questo mercoledì 5 febbraio, intanto i titoli sono alcuni declinati proprio su questo tema. Napolitano all'Europa, basta con l'austerity, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera, Napolitano finisca l'austerità. Repubblica, Napolitano all'Unione Europea, basta austerity. Come vedete, tre titoli simili di tre quotidiani. Avvenire, no al rigorismo cieco, ma l'euro non si tocca. L'Unità mette Lega, Grillo, nemici dell'Italia, accomuna Grillo e le vicende ieri della Lega. Poi la vicenda di Letta che ha preso un po' di soldi nel suo tour negli Emirati e in Arabi, negli Emirati Arabi e in Qatar. Il Manifesto mette il titolo Letta d'Arabia, mentre Libero mamma gli arabi. Poi la Stampa, pensioni richieste dimezzate. Il Messaggero invece, sconti fiscali arrivano i tagli. A proposito di fisco, il giornale invece denuncia tentata rapina sui telefonini, allo studio una tassa sui prodotti elettronici compresi computer e decoder. E anche il Secolo XIX mette fisco, bluff e nuovi balzelli. Per il Fatto Quotidiano invece l'apertura è su una, diciamo, bega interna alla CGIL, Camusso scomunica Landini, la CGIL deve processarlo. Lo scontro riguarda l'intesa con Confindustria sulla rappresentanza che mette fuori gioco le sigle che non firmano gli accordi di categoria. Ma io voglio partire, allora sarà una settimana e saranno mesi, un mese soprattutto importante. Vi segnalo subito Roberto Turno sul Sole 24 Ore, l'ingorgo dei decreti, perché poi tutto è nato, anche l'impazzimento della politica degli ultimi giorni, dal fatto che i decreti vengono accorpati, i decreti non vengono approvati, si arriva a scadenza della conversione dei decreti legge del governo e poi negli ultimi giorni bisogna fare in fretta e furia e succedono anche i pasticci con addirittura le annesse polemiche e esagerazioni degli ultimi giorni. Il risico dei 9 decreti che ipotecano le Camere. Roberto Turno sul Sole 24 Ore a pagina 14 racconta dei 9 decreti, 9 che premono, ipotecano pesantemente i lavori parlamentari. C'è il doppio rebus sulla legge elettorale e riforme istituzionali, c'è la cancellazione delle province che resta un'eterna promessa. Siamo, aperta parentesi, alla 40ª settimana in corso per l'abolizione delle province, settimana decisiva. L'addio ai soldi pubblici, il finanziamento che è dei partiti per nulla scontato entro il 26 febbraio va approvato. Insomma, scrive Roberto Turno, tra l'altro facendo un piccolo bilancio per sua stessa missione, misero a 326 giorni dall'insediamento della legislatura, 281 giorni dalla nascita del governo Letta, le Camere tentano di fare i conti, si scoprono in deficit con una miseria di 32 leggi fin qui varate. E il loro peso specifico, tra l'altro, è un peso veramente inconsistente. Il primo decreto che scade è quello sulla terra dei fuochi. Entro questa settimana da approvare al Senato e anche qui si dovrà fare dunque in fretta e furia, visto che mancano 2 giorni. Vabbè, questo è l'ingorgo all'interno delle camere. Anche a febbraio rischiamo di vedere scene di affollamento, speriamo non con conseguenti risse, resse, spintoni e urla e insulti che abbiamo visto la scorsa settimana. Vi voglio invece segnalare quello che ha detto un personaggio che è molto discusso in Italia. Di recente è stato discusso anche per un tweet che ha fatto sull'Electrolux, quando ha scritto che il costo del lavoro per l'azienda si triplica e dunque l'azienda fa bene ad abbassare i salari come propone in Italia. La persona è Davide Serra, finanziere che lavora a Londra e che è diventato famoso perché ha appoggiato nel recente passato Renzi. Vi ricordate anche la famosa battuta di Bersani, il finanziere che ha i conti alle Cayman, le minacce di querela, insomma questa vicenda qui. Ebbene, Davide Serra racconta ieri Repubblica con Enrico Franceschini a pagina 3. Ha fatto un intervento con l'economista Tito Boeri, ha risposto alle domande di un giornalista italiano del Financial Times, Ferdinando Giuliano. La sede era la più prestigiosa università di scienze politiche del mondo, la London School of Economics. Ebbene, Davide Serra, sentite che cosa ha detto tra le altre cose. Ha parlato di competizione globale come buona cosa, perché per me gli esseri umani sono tutti uguali. Se in Africa chi guadagnava un dollaro ora ne guadagna due, è positivo, ma inevitabilmente ciò toglie qualcosa a noi. E vabbè, qui opinabile, ma comunque siamo su una linea abbastanza moderata. Ma poi, quando si addentra sulle leggi sul lavoro, dice Davide Serra, sono troppo complesse, nessuno ci capisce niente tranne gli avvocati. Gli avvocati? La risposta di Davide Serra è questa: sì, gli avvocati, ce ne sono troppi, sono come un cancro. Questo Davide Serra, cari avvocati che siete all'ascolto. In Italia il 25% degli studenti si iscrivono a legge, in Germania sono il 4%. Ci sono più avvocati a Milano che in tutta la Francia. Io questa la sapevo su Roma, più che in tutta la Francia, già Gian Antonio Stella l'aveva detto. Ma comunque la frase è questa: gli avvocati, ce ne sono troppi, sono come un cancro. Davide Serra. E poi sulla politica i politici li manderei a lavorare nei palazzi di periferia, tipo a Fiumicino, e venderei i palazzi che sono in centro, a Roma, come in ogni altra città. Inevitabile anche la domanda su Renzi, lo appoggio intanto perché è giovane, per cui non ha avuto il tempo di rubare come le generazioni che lo hanno preceduto. E poi perché come sindaco di Firenze ha ridotto tasse e spese, la migliore chance di successo del paese. È chiaro che se ridiamo le chiavi a chi ci ha portato al collasso negli ultimi 20 anni, le cose potranno solo peggiorare. Così Davide Serra, lo trovate a pagina 3 di Repubblica. Due notizie che mi hanno colpito. La prima è questa: in Portogallo, per fare cassa e per abbattere il debito, si vendono i quadri. Voi dite, ma che, siamo matti? Sì, hanno deciso, poi è stata bloccata all'ultimo momento, per la verità. Il Portogallo insorge e Christie's, la più grande casa che batte all'asta i quadri, ha rinunciato dopo le polemiche. Ma in Portogallo avevano deciso di vendere 85 miro per ridurre il debito. Gian Antonio Righi ne parla sulla Stampa pagina 16, ma anche il Messaggero dedica una pagina, pagina 6. Il governo svende la collezione Miró, racconta Origi sulla Stampa. Perfino Ionesco strabuzzerebbe gli occhi. Solo i dubbi legali della celebre casa d'aste londinese Christie's ha fermato all'ultimo momento la più vergognosa svendita culturale dello Stato portoghese, quella di 85 opere del geniale pittore surrealista spagnolo Miró. Le tele appartenevano al fallito e poi nazionalizzato e rivenduto Banco Portoghese de Negocios, che ha lasciato un buco da 1,8 miliardi dei conti dello Stato. E allora la grottesca storia nasce nel 2006, quando il banco acquisisce un lotto di quadri, disegni, da un milionario giapponese, che è il più importante collezionista al mondo di Miró. A sua volta lui li aveva acquistati dalla vedova di Matisse. Il prezzo era 34 milioni di euro. Il banco acquista tutto questo, poi fallisce, viene nazionalizzato e l'idea è questa: vendere 85 Miró per fare cassa. Vabbè, la banca, quella roba lì, insomma, Christie's ha rinunciato alla vendita all'asta dopo le beghe legali che ne potevano conseguire, e comunque questo fermato. Questione di soldi, ma questione minore. Spesso dite non c'è una buona notizia sempre ai giornali. Guardatela qui la buona notizia: un cittadino italiano, che viene raccontato da Repubblica, da Fabio Tonacci a pagina 18, ha fatto un'azione meritoria certamente, si chiama Andrea Tarantino, è di Palermo, ha 49 anni, da 32 anni lavora come piccolo di camera sui traghetti della Tirrenia, cioè tradotto pulisce e rimette in ordine le cabine dei viaggiatori. Così ho trovato 26.000 euro abbandonati in una busta sulla nave e li ho restituiti senza pensarci un attimo. È un lavoratore precario, vedeva davanti a sé dentro quella borsetta 15 mesi del suo stipendio alla Tirrenia, un pezzo del mutuo che le banche non gli hanno mai dato, il premio aziendale che non ha mai ricevuto. Eppure Andrea Tarantino, una vita passata nel ventre dei traghetti Tirrenia, quei 26.000 euro non li ha voluti nemmeno toccare. Dichiara: mi facevano paura, e se poi servivano per pagare le cure di una bambina malata? E allora il piccolo di camera, questa è la sua qualifica a bordo, davanti al tesoretto non ha vacillato, l'ha restituito subito, rivelandosi per quello che è. Un gigante, scrive Repubblica. Una storia minuscola, ma una storia dunque enorme, accaduta sulla Vincenzo Florio, nave dell'ex compagnia di bandiera, al momento dell'approdo del porto di Napoli. Per Tarantino, 49 anni, una mattina come tante, la sveglia alle 5.45, il caffè veloce, poi giù nel corridoio di ferro, 50 cabine da riordinare appena i passeggeri escono, racconta Repubblica. Ho cominciato a lavorare qui nel 1982 come piccolo di camera e quello sono rimasto. Mai una promozione vera, anche se ultimamente ha anche il ruolo di garzone, mai la possibilità di un'assunzione a tempo indeterminato. Quando serve, lo chiamano. E lui sta 50 giorni in mare, lontano da Palermo, dalla moglie Maria casalinga, dalle figlie di 21 e 14 anni, entrambe da mantenere a scuola. In tasca guadagna tra i 1.600 e i 1.800 euro netti al mese, poi una volta a terra viene lì liquidato in tutti i sensi, a volte è rimasta a casa anche due mesi. Un giorno capita che una signora cinese di mezza età dimentichi una borsa sotto il cuscino con dentro 26.000 euro, con tagli da 50, 20 e 10 euro, nessun documento, solo soldi, e capita che Andrea Tarantino li trovi mentre da solo cambia le federe. E allora, scrive Repubblica, 9 persone su 10 un pensiero ce lo fanno, forse anche più di uno. Lui no. Il cuore mi è diventato piccolo piccolo, ho pensato che potevano servire per fare un'operazione a un bambino e non ho avuto dubbi, li ho restituiti subito ai miei superiori. La signora cinese è tornata in camera e ha ringraziato Andrea lasciandogli 200 euro di mancia, 200 su 26.000 euro, mannaggia ragazzi, è cinese, e dai, su. Un centone in più potevi lasciarglielo, eh? Comunque, la pubblicità e ripartiamo dalla politica italiana. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora eccoci qua alle 7.35 minuti, Napolitano è andato in Europa, ha detto stop all'austerity, ora ci vogliono investimenti pubblici, stop a questo rigorismo europeo. Ma la notizia è diventata sui giornali la chiassosa contestazione degli eurodeputati della Lega, tra questi c'era anche Matteo Salvini che è il segretario della Lega. Il titolo del Sole: stop austerity, ora investimenti pubblici. Il dibattito anche sul Corriere della Sera, che c'è a pagina 3, con l'intervista a un docente di Harvard, Richard Freeman, che dice: ha ragione, ha centrato il problema, basta guardare come alcuni paesi, Spagna, Portogallo e Grecia, hanno spremuto i loro settori pubblici senza stimolare il settore privato, il risultato non poteva che essere una recessione prolungata. Questa è l'analisi di Freeman, che ad Harvard insegna economia, e la discussione, scrive il Corriere, proprio va avanti da decenni in modo acceso. Da un lato i sostenitori della necessità di ridurre gli indebitamenti pubblici come presupposto della crescita, tra questi in testa la cancelliera tedesca Angela Merkel, ma anche il governo di Londra, buona parte dei paesi dell'Europa del Nord, i politici e gli economisti liberali. Per alcuni versi in questo campo potrebbe essere avvicinato anche Gerhard Schröder, ex cancelliere tedesco. Dall'altro le sinistre, i governi dei paesi dell'Europa del Sud, l'amministrazione Obama da Washington, economisti post-keynesiani, che pensano invece che vadano prima sistemati i conti e dunque il rigore. Questo è il dibattito, ma certo la vicenda della contestazione che fa prendere oggi la penna Massimo Franco e Vergara e firmare un duro editoriale di prima pagina del Corriere della Sera ha un po' sopravanzato anche questo dibattito. Il titolo di Massimo Franco è Una tentazione pericolosa e parla di vera e propria sceneggiata. La contestazione sgangherata della Lega contro il presidente Napolitano nell'aula del Parlamento lascerà tracce labili nella storia. Tuttavia, al merito di far capire cosa sarebbero le istituzioni di Bruxelles se alle prossime elezioni vincessero le forze eurofobiche gonfiate da crisi economica e disoccupazione. Al di là della nuova pennellata di fango all'immagine dell'Italia, la deriva di un partito che fino a 3 anni fa aveva ambizioni quasi nazionali è inquietante, la metafora della regressione di un pezzo d'Europa e per questo deve far riflettere, perché la sceneggiata del partito di Salvini non ha avuto stavolta per protagonisti personaggi pittoreschi e secondari, è stata recitata da tutto il gruppo dirigente. Insomma, questa è la posizione molto dura del Corriere della Sera in prima pagina. Per la verità, su questo tema anche interviene Flavio Zanonato, il ministro dello sviluppo economico, che dice il patto di stabilità è effettivamente superato, ci vogliono regole meno rigide, il presidente Napolitano ha ragione. Viene intervistato da Luisa Grion su Repubblica il ministro Zanonato e parla appunto del troppo rigore e del patto di stabilità non più funzionale. Diciamo che quando abbiamo stretto il patto, dice Zanonato, abbiamo ragionato un po' come le quote latte, così come sul latte si trattò di limitare la produzione per aumentare i prezzi, per la politica economica si trattò di non indebitarsi più di tanto sul PIL per non creare inflazione. Raggiunto l'obiettivo, le regole vanno rese ora meno rigide. Il dibattito comunque è euro sì, euro no, ne parleremo dalle 8:15 alle 9 con gli ospiti. In tutto questo invece c'è uno sguardo quasi incrociato invece che all'Europa, al mondo arabo. Certamente fa ancora notizia, fa molta notizia sui giornali la fine del tour di Enrico Letta, che è andato negli Emirati Arabi Uniti, poi in Qatar, poi ieri era in Kuwait. Letta in Kuwait rivendica i risultati, siamo affidabili, basta disfattismo. È un po' una risposta anche alle accuse che sono piovute dal leader di Confindustria Squinzi, che ieri ribadisce però ho il diritto e dovere di dire ciò che serve. Ma insomma Letta dice, prende per esempio l'accordo tra la Cassa Depositi e Prestiti guidata da Franco Bassanini e il Fondo Sovrano del Kuwait Investment Authority, con l'arrivo di 500 milioni di euro da investire nelle piccole imprese nelle casse del Fondo Strategico Italiano, come esempio per dire, come scrive il Corriere della Sera, pagina 5, basta al disfattismo, questi sono dei fatti. Dal Kuwait 500 milioni, Letta esulta, così titola anche il Messaggero a pagina 5, che scrive invece il giornale, la mette così: il Letta d'Arabia usa i petrodollari per sfidare Renzi. E perché sì, sullo sfondo della politica italiana c'è sempre quel duello Letta-Renzi, cioè un Letta in difficoltà a livello politico che quindi utilizza questo accordo anche per dire vedete che qualcosa si muove, vedete che si sta agendo. Perché è importante questo? Per introdurre il discorso successivo, perché il discorso della politica è un discorso che prende nuovamente piede con l'idea della staffetta. L'idea della staffetta, che cos'è? Sono sempre più insistenti e insistite le voci di un pressing su Matteo Renzi. Repubblica lo mette in prima pagina con il retroscena di Claudio Tito sotto questo titolo: vai tu a Palazzo Chigi, il bivio ormai è lì davanti, prenderà una forma visibile a tutti tra una decina di giorni, subito dopo che la Camera avrà approvato la legge elettorale. Tra l'altro, apro parentesi, segnatevelo, 10 giorni per l'approvazione della legge elettorale, a me fa un po' sorridere alla camera, ma staremo a vedere. Comunque, una biforcazione che segnerà il destino di questa legislatura e determinerà una vera e propria svolta per il governo e per il PD. Si capirà, insomma, se Enrico Letta potrà andare avanti o meno. Soprattutto si saprà se l'alternativa all'attuale presidente del Consiglio saranno le elezioni anticipate o la formazione di un nuovo esecutivo guidato da Renzi. Renzi continua a schermirsi, a dire coi suoi non esiste, deve andare avanti Enrico, eppure, scrive Repubblica, nella maggioranza e tra i leader della futura coalizione di centro-sinistra il tam-tam è già partito, c'è il precedente del 98 di Massimo D'Alema che aleggia come un fantasma. Il ragionamento è questo: se Letta non è in grado di compiere l'auspicato cambio di passo, sarebbe indispensabile correre ai ripari mettendo subito al governo Matteo Renzi, che continua a dire vada avanti lui, no a questa ipotesi, ma retroscena, e sapete che poi questi tam-tam diventano sempre più oggetto di dibattito e rischiano di diventare verità, il fronte trasversale a favore di Matteo, se Enrico non cambia passo, tocca a te. Pagina 1-3 di Repubblica, ma anche altri giornali hanno questa lettura. Vabbè, prima di parlare degli insulti, Movimento 5 Stelle, del centrodestra in fermento, le altre notizie di politica, saluto Mauro Meazza. Eccoci Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Il Sole 24 Ore, ho già detto di Cherchi che parla dell'ingorgo parlamentare, è in arrivo, speriamo non porti nuovi insulti. Per il resto che abbiamo? Ah, per il resto abbiamo un tabloid, cioè una guida speciale dedicata alle crisi di impresa, sai, purtroppo un argomento di attualità, e allora per capire come affrontarle noi presentiamo in allegato al Sole 24 Ore una guida di 16 pagine, e questo mi sembra già, come dire, un tentativo di fare chiarezza, di aiutare. E poi c'è stata la delega fiscale ieri a proposito di lavori parlamentari, ha fatto un passaggio il fisco del futuro che dovrebbe essere più giusto, più semplice, più comprensibile, meno vessatorio, chi lo sa se poi saranno tutte promesse che si avveranno, comunque le racconta in dettaglio Mobili E poi non so se hai visto, sei sempre così attento alle cose calcistiche, ma Carlo Festa ha delle indiscrezioni su Tohir. Ah, attenzione. Sì, in finanza. Lascia? No, che lascia, raddoppi, di mezzo, nel senso che cederebbe questa squadra statunitense che lui possiede, lui sa che è un collezionista di squadre, sì. E insomma lì ci sono tutte cattive notizie per voi non interisti, mi dispiace. Sì. Beh, arriveranno dei grandi campioni, per esempio, dalla squadra statunitense, no? Lì. Grandi, non ho idea se poi come si muoverà sul mercato, comunque dovrebbe arrivare un nuovo, ma leggi Carlo Festa, insomma, guarda. Fare raccontare a te dell'Inter effettivamente qualcosa di spiacevole. Sai che sono poi un conflitto di interessi. Sì, certo. Senti, c'è un nuovo codice deontologico per gli avvocati che sta arrivando in bozza. Ah, hai sentito Davide Serra sugli avvocati? No, forse non l'hai collegato. Il finanziere Davide Serra ieri a Londra ha detto gli avvocati d'Italia sono talmente tanti che sono come un cancro. Ecco, una di quelle dichiarazioni per farsi ben volere dalla categoria degli avvocati. Che effettivamente sono numerosi, quindi non mi sembra prudente. Infatti, punto di vista così del numero fisico. Ecco. Senti, guarda, poi ti rimanderei Radio Fisco, al quotidiano del fisco, perché abbiamo questo supplemento digitale, questo quotidiano verticale, non so più come chiamarlo, ma lì ci sono tutte le cosine belle per chi si occupa della materia, la compensazione tra crediti e debiti, il rientro dei capitali. Guarda, siccome questa settimana è in consultazione gratuita per tutti, anche tu se vuoi vedere per questi 2 euro che devi riportare, collegati www.quotidianofisco, trovi l'indirizzo sul Sole 24 Ore e ti fai una cultura anche tu. Deve essere abbastanza facile anche per me. Mauro, ti saluto e ti ringrazio. Ci troviamo domani mattina, è il momento delle informazioni sul traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, intanto le polemiche dopo gli insulti, dibattiti continuano alla Camera. Ieri si è riunito l'ufficio di presidenza con le sanzioni possibili per 40 deputati, arriveranno forse settimana prossima. Movimento 5 Stelle in 40 a rischio sanzioni, questo è il titolo del Corriere della Sera. Nel mirino c'è anche D'Ambrosio invece è il questore di Scelta Civica, colui che ha dato quella spintone, la manata alla grillina Lupo. Tra l'altro su questo tema c'è da segnalare la pagina della Stampa, Marco Castelnuovo, è l'unica cosa un po' nuova su questo, c'è un sondaggio, l'insondaggio dell'Istituto Piepoli sul tema, beh, ma tutta questa politica, questo modo di fare politica giova o no al Movimento 5 Stelle? Il titolo è: gli insulti non piacciono, ma il Movimento 5 Stelle regge nei sondaggi. E cioè, scrive Marco Castelnuovo in questa analisi di una pagina, su questo sondaggio di Nicola Piepoli, gli italiani non gradiscono l'escalation di insulti dell'ultima settimana con i grillini all'attacco delle istituzioni, ma questo non basta per perdere consenso. Perché? Si chiede, e secondo l'ultimo sondaggio il Movimento 5 Stelle ha perso un punto percentuale, mentre Forza Italia sale di un punto, il Partito Democratico sale di mezzo punto, insomma più o meno la situazione rimane simile a quella che ha portato a un sostanziale tripartitismo nelle ultime elezioni. Il sondaggio è chiaro, il 71% degli italiani crede che il Movimento 5 Stelle abbia oltrepassato i limiti dal punto di vista degli insulti, pensa che così facendo Grillo perderà consenso, ma anche se la ricerca evidenzia che gli italiani giudicano negativamente il comportamento di leader, parlamentari, militanti e simpatizzanti grillini, questo non vuole significare una perdita di consenso dal punto di vista dei voti. Questo è il sondaggio che viene proposto dalla Stampa. Il centrodestra invece, ci sono delle notizie, ovviamente si dibatte da giorni sulla questione Casini sì, Casini no, il figliol prodigo che torna da Berlusconi. Per la verità Libero scrive che Berlusconi avrebbe un'altra tentazione, una tentazione vecchia che rispunta, che è quella di Alfio Marchini, imprenditore, 48 anni, questo in prima pagina di Libero, Mattias Mainiero. È l'ultimo imprenditore che piace al Cavaliere, amico, in realtà è amico di D'Alema, amico di CL, delle banche, del Vaticano, così viene definito da Libero. Per molti sarà Marchini il candidato premier di Forza Italia. Alfio Marchini, da Alfano ad Alfi. Comunque, insomma, Alfio Marchini, questo secondo Libero. Anche se la notizia vera, perdonatevi, ma questa l'ho trovata in piccolo, un francobollo su Libero, ma è la notizia del giorno che riguarda Berlusconi. Per molti sarebbe scivolato Berlusconi ieri sulla palla che è utilizzata come gioco da Dudu, costringendolo anche a far saltare un appuntamento e a chiamare l'ortopedico. Cribbio Dudu, pare che abbia esclamato Silvio Berlusconi ad Arcore. Il Cavaliere scivola sulla palla di Dudu. Questo Libero a pagina 8. Piccolo incidente domestico per Silvio Berlusconi. E vabbè. E chissà, però, insomma, Dudu che è intoccabile, è trattato benissimo, si sarà solo sentito urlare un cribbio di fama berlusconiana. Allora, ci sono degli articoli interessanti che vi segnalo, il Giornale addirittura ci apre, il Secolo XIX dedica mezza pagina, anche il Messaggero, su questa tassa che si è profilata ieri come possibile e che poi il ministro ha visto, il ministro della cultura Brai, dire forse ci stiamo ripensando. Quella che il Giornale dipinge come una stanga, una tentata rapina sui telefonini, quella che il Secolo XIX dipinge come una stangata su tablet e smartphone, cioè in arrivo, scrive il Secolo con Michele Lombardi, un maxi balzello che potrebbe colpire smartphone, tablet, computer, i prodotti tecnologici compresi decoder, chiavette USB. È un'ipotesi circolata ieri, l'aumento fino al 500% della tassa che grava su tutti i dispositivi con memoria digitale. Si va dai 5 euro per i telefonini ai 40 euro per i decoder. Nel caso delle chiavette USB, secondo l'associazione dei consumatori Adoc, il costo del prodotto risulterebbe inferiore all'imposta applicata. Una batosta, insomma, che viene giustificata dall'adeguamento triennale cosiddetto equo compenso, cioè con il compenso destinato alla SIAE per i diritti d'autore, che ha scatenato un vero e proprio putiferio politico, con già anche i renziani del PD schierati in campo contro il governo, in questo caso identificato nel ministro dei beni culturali Massimo Brai, che dovrebbe firmare il decreto ma è stato costretto a una parziale marcia indietro. Il Giornale titola: basta con le rapine, questo Stato va fermato. Staremo a vedere, pare che tutto possa fermarsi, non si sa. Vi segnalo solo come flash l'intervista a Josefa Idem, senatrice del PD, ma che era ministro dello sport e delle pari opportunità, che a Repubblica dice, intervistata pagina 15, io se fossi ancora ministra non sarei andato, come farà invece il ministro Delrio insieme al premier Letta, all'inaugurazione delle Olimpiadi di Sochi in Russia venerdì. Sapete che Letta andrà, molti boicottano contro le politiche anti-gay della Russia. E Josefa Idemio dice: io se fossi ancora ministra non sarei andata, ma aggiunge: se invece fossi lesbica sarei andata, perché in questo caso il motivo sarebbe un motivo politico di protesta, come ha fatto Obama, che nella delegazione americana ha messo due rappresentanti esplicitamente lesbiche per dare un segnale, come dire, molto forte a Vladimir Putin. Sono in conclusione, solo per dare il premio a Libero per la carta costa, una pagina intera sul dramma di Arienzo, comune della provincia di Caserta, Giordano Tedoldi. Qual è questo dramma? C'è un'invasione di mosche. E per carità, ad Arienzo diranno: magari, meno male che se ne parla, però insomma, cattive, voraci, infestano le strade, le case di Arienzo. C'è un dibattito, colpa dell'allevamento di galline ovaiole. No, l'allevamento di galline ovaiole non c'entra nulla. Il dibattito su Arienzo invasa dalle mosche. Amici di Libero, ma perché non si capisce che la carta costa? Si fa fatica. Questo concetto non entra. Dai, giornale radio.